parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo. E noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino. Bisogna